L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, vi dobbiamo raccontare i 7 fatti più importanti dell'ultima settimana che si è aperta sabato scorso 20 settembre ed è finita ieri. I servizi, le interviste e i commenti sono andati in onda come sempre nei GR di Radio 24. Sabato. Apriamo la nostra settimana con la terribile strage che si consuma in Pakistan per l'attacco kamikaze contro un albergo di lusso della capitale Islamabad. Il racconto di Roberta Pelegatta. Erano le 8 di sera a Islamabad e la hall del centralissimo hotel Marriott era affollata quando un camion carico di tritolo è esploso di fronte all'edificio, lasciando un cratere profondo 6 metri. Il violento incendio scaturito dall'esplosione ha intrappolato centinaia di persone nei diversi piani, inducendo alcune di loro, scena già vista, a lanciarsi dalle finestre nel disperato tentativo di trovare scampo. Danneggiati anche molti palazzi limitrofi, tra cui la redazione della televisione di Stato pakistana, una banca e alcune abitazioni. Tra le vittime diversi cittadini occidentali, clienti abituali dell'hotel. Al momento dell'attentato kamikaze, nell'albergo erano in corso alcuni ricevimenti, uno dei quali organizzato in onore del neopresidente Asif Ali Zardari. Il terrorismo è un cancro, ha affermato il vedovo di Benazir Bhutto nelle ore successive all'attentato, confermando che il governo continuerà a combattere l'estremismo in tutte le sue varie forme. I morti dell'attentato al Marriott alla fine sono addirittura 60. Ben presto emergono i dettagli dell'assalto, compiuto con un camion bomba con 600 kg di esplosivo a bordo, unito tra l'altro a polvere di alluminio che aumenta così la capacità esplosiva. Mentre per tutta la settimana la situazione rimane incandescente in Pakistan. Si segnala per esempio giovedì un allarme bomba all'aeroporto di Islamabad, mentre ci sono continui scontri al confine tra Pakistan e Afghanistan che coinvolgono talebani e soldati NATO. Perché bisogna anche ricordarlo e non c'è dubbio, l'attentato di sabato a Islamabad è fortemente legato, connesso a quello che accade in Afghanistan e sul fronte talebano. Tant'è vero che nessuno dubita della firma di Al-Qaeda nell'attentato. Al-Qaeda che nelle stesse ore torna a farsi viva con un video minaccioso. Laura Bettini. Era stato annunciato per l'8 settembre, ma è arrivato in ritardo di oltre 10 giorni l'ormai consueto video con cui Al-Qaeda celebra a modo suo l'anniversario dell'11 di settembre. La causa, dicono gli esperti, è un attacco di hacker, di pirati informatici, che in vista della diffusione del messaggio si sono scatenati per bloccarlo. Un'azione che probabilmente non ha poi stupito troppo i qaedisti. Nei giorni scorsi, infatti, estremisti sunniti come loro hanno colpito oltre 300 siti sciiti in tutto il mondo. Il filmato alla fine è uscito ieri. È intitolato I risultati di 7 anni di crociate. Dura 90 minuti e contiene i messaggi di Al-Zawahiri, numero 2 dell'organizzazione, e di diversi capi militari. Manca invece Bin Laden, ma si rassicurano i fedelissimi sulle sue condizioni di salute. Nel video Al-Qaeda minaccia nuovi attacchi in Afghanistan contro gli americani e contro i loro alleati. E proprio oggi un convoglio di militari italiani è stato attaccato nella provincia afghana di Badghis, nella stessa zona in cui ieri un'altra pattuglia era scampata a un altro attentato. Per fortuna nessun ferito. Dall'Afghanistan passiamo all'Egitto, che improvvisamente diventa una terra a rischio e di grande preoccupazione per noi italiani. Infatti nella mattinata di lunedì arriva la notizia che 5 turisti, nostri connazionali, sono stati rapiti. Sono nelle mani dei rapitori assieme ad altri 14 ostaggi, già ormai da 3 giorni, infatti il rapimento risale a venerdì scorso. Ecco l'intervento in diretta alle 13 di lunedì, quindi pochissimo dopo la diffusione della notizia, dall'inviata al Cairo Federica Zoia. Da quello che riusciamo a capire fino ad ora si tratterebbe di una situazione davvero molto complessa, e questo perché insieme ai 5 turisti italiani che sono stati confermati anche dal nostro Ministero degli Esteri, ci sarebbero 2 israeliani. E questo è l'aspetto su cui le televisioni arabe, tutti i media arabi stanno puntando l'attenzione in questi momenti, perché questo fa pensare all'allerta, allerta rossa degli scorsi giorni che il Ministero degli Esteri israeliano aveva diffuso ai propri turisti all'estero. Cioè si sapeva da 4 giorni a questa parte che nei confronti degli israeliani al di fuori di Israele e nei paesi più limitrofi, quindi Giordania e Egitto, c'era un forte allarme rapimento. Quindi a questo punto quello che possiamo dire è che non ci sono precedenti di rapimenti in Egitto di turisti stranieri ed è ancora tutto da verificare chi abbia potuto compiere un gesto del genere. La vicenda del rapimento resta avvolta nel mistero e nell'incertezza per tutti i giorni successivi. Ben presto si diffonde addirittura la notizia falsa della liberazione degli ostaggi, notizia subito smentita, mentre martedì il ministro degli esteri italiano Frattini chiede il silenzio stampa per non condizionare in negativo le indagini. Prima però di conoscere gli ultimi sviluppi della vicenda del rapimento degli italiani, torniamo ancora in Afghanistan, dove anche lì i rapimenti sono una triste realtà. Il servizio di Cristina Balotelli, che è andato in onda lunedì sera. In Afghanistan continuano a sparire persone. Oggi oltre 140 operai di un'impresa di costruzione sono stati rapiti dai talebani. Lavoravano alla costruzione di una base militare nella provincia di Farah, dove talebani e bande criminali sono particolarmente attive. Anche in Pakistan oggi è stato rapito un diplomatico del consolato afghano a Peshawar. Intanto proseguono le indagini sull'attentato di sabato sera all'hotel Marriott di Islamabad, nel quale sono morte almeno 53 persone. La polizia pakistana ha arrestato due sospetti terroristi che sarebbero legati ad Al-Qaeda. Uno dei due era già ricercato per un tentativo di uccisione dell'ex presidente pakistano Musharraf. Altre tre persone sono state arrestate per essere interrogate in una moschea del distretto di Kharian. Intanto i fedayin dell'Islam, un gruppo poco conosciuto, hanno rivendicato l'attentato, secondo quanto riferisce la televisione Al Arabiya. Torniamo, come preannunciato pochi minuti fa, alla sorte dei 5 ostaggi italiani. Giovedì emergono nuovi sviluppi. Sentiamo ancora un servizio di Federica Zoia. Si complica ulteriormente la situazione dei 19 ostaggi nelle mani di predoni del deserto da venerdì scorso. 5 italiani, 5 tedeschi, un rumeno e 8 accompagnatori egiziani, fra cui il titolare dell'Egyptus Tour, tour operator responsabile dei safari nel deserto. Oggi la carovana, in teoria accerchiata dai servizi di sicurezza egiziani e sudanesi, ha riferito il Ministero degli Esteri sudanese, si è spostata verso ovest fino a entrare in territorio libico per ben 15 chilometri. Tocca dunque ai servizi di Tripoli affiancare tedeschi e italiani nelle trattative con i rapitori dopo alcune ore di interruzione nei contatti. E c'è ancora incertezza sull'identità dei banditi, forse ribelli del Darfur, e sulle loro effettive richieste. Si parla di un riscatto tra i 6 e i 15 milioni di euro, ma potrebbe trattarsi anche di armi. Nel frattempo il Cairo ribadisce di non voler pagare un riscatto e rimane in secondo piano nelle trattative. Domenica. L'ultima puntata dell'ottavo giorno, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, si era conclusa con la cronaca del grave attentato di Castel Volturno nel Casertano, costato la vita a 6 immigrati nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Nei giorni seguenti, quindi quelli che riguardano poi la puntata odierna dell'ottavo giorno, prima la comunità di immigrati della zona scende in piazza a protestare, poi il governo cerca di organizzare una reazione. Sentiamo Paolo Piacenza. Al Ministero dell'Interno la definiscono una risposta forte ed immediata. 400 tra agenti di polizia, carabinieri e finanzieri saranno inviati nel Casertano per intensificare il controllo del territorio, colpire la criminalità organizzata, stroncare le altre attività criminali cui i responsabili, se immigrati clandestini, saranno espulsi al più presto. La reazione dello Stato alla strage di Castel Volturno da ieri si muove su tre fronti. Da un lato i nuovi arrivi per le forze dell'ordine, la possibilità da valutare in Consiglio dei Ministri di utilizzare anche l'esercito per pattugliare la zona. Un punto su cui però il ministro della difesa La Russa frena. Poi c'è il fronte delle indagini. È ormai certo che la strage degli immigrati e l'agguato da Antonio Celiento siano stati commessi dallo stesso Kalashnikov. I sicari erano probabilmente 6 o 7, hanno utilizzato 2 auto, poi trovate bruciate una moto. L'ipotesi più accreditata è che l'azione contro gli extracomunitari avesse lo scopo di far sapere agli immigrati che gestiscono droga e prostituzione in zona che i padroni sono sempre i clan di Casalti Principe. Infine la risposta alla guerriglia scatenata per protesta da un gruppo di immigrati venerdì. Ieri 20 di loro sono stati identificati e denunciati. Sull'impiego dell'esercito si crea proprio un fronte di polemica nella maggioranza e in particolare tra i ministri Maroni e La Russa, di cui parleremo tra pochissimo. Prima però ecco gli sviluppi nelle indagini dell'attentato di Castel Volturno nel servizio del corrispondente Enzo Danna lunedì sera e a seguire l'analisi di Daniele Biacchessi sulle strategie della Camorra a Caserta. Era agli arresti domiciliari Alfonso Cesarano, uno dei presunti killer della strage di Castel Volturno nella quale sono stati uccisi 6 extracomunitari. Il pregiudicato è stato arrestato dalla polizia a Baia Verde, la località dove poco prima dell'agguato agli immigrati era stato ucciso il titolare di una sala giochi. Le accuse contestate sono strage, omicidio volontario aggravato dalle modalità mafiose, porto e detenzione illegale di armi da guerra. Ora gli inquirenti sono sulle tracce di altri 2 componenti del gruppo di fuoco, che sarebbe stato composto da almeno 7-8 persone. Sugli elementi raccolti nei confronti degli indagati c'è stretto riserbo. I clan camorristici che operano in campagna sono strutturati come un vero e proprio sistema. Controllano il traffico di rifiuti tossico-nocivi attraverso società pulite, guidate sul piano amministrativo da prestanome. gestiscono il lavoro nero degli immigrati, la raccolta di frutta e verdura nei campi delle campagne in provincia di Caserta, l'impiego e i salari degli immigrati. Il sistema della Camorra determina perfino appalti di opere e infrastrutture attraverso consiglieri comunali e funzionari della pubblica amministrazione. La forte penetrazione dei clan garantisce il controllo quasi totale di un vasto territorio nazionale, nelle intere province di Caserta e di Napoli. Sono i luoghi in cui la Camorra è ormai diventata Stato. Ora le istituzioni devono dare una pronta risposta. Al sistema mafioso lo Stato deve contrapporre un altro sistema, quello della legalità. Non servono dunque soldati, servono invece inchieste rapide da parte della magistratura, poteri straordinari di polizia giudiziaria, grandi investimenti sulle forze di polizia impiegate nel controllo del territorio, certezza della pena per impedire che i boss tornino in libertà. Soprattutto serve l'affermazione di una cultura di legalità che rompa i patti tra boss e popolazione, quell'omertà che spesso è alla base del consenso delle mafie. Quella di mercoledì è forse la giornata di maggiore tensione sul tema dell'esercito a Caserta, tra i già ricordati, già citati ministri Maroni e La Russa, che rispettivamente dirigono il Viminale e la Difesa. Ci racconta tutto questo servizio di Paolo Panceri. Siamo in presenza di una vera e propria guerra civile che la Camorra ha dichiarato allo Stato. E lo Stato deve rispondere con tutti i mezzi. Questa frase del ministro dell'interno Roberto Maroni ha innescato un botta e risposta fuori programma con il collega della difesa Ignazio La Russa, per il quale invece si tratta solo di uno scontro tra bande. Con la strage degli extracomunitari a Castelvolturno, ha spiegato il titolare del Viminale nel corso dell'informativa al Senato, la Camorra ha voluto ribadire il controllo del territorio lanciando un segnale allo Stato. Invece per La Russa si tratta di un'aggressione della criminalità organizzata alla legalità più che una guerra civile allo Stato. Una precisazione, quella del ministro della difesa, che Maroni non ha gradito e che anzi ha provocato la forte irritazione dell'esponente leghista, il quale avrebbe chiamato il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per lamentarsi dell'intervento del collega di maggioranza. Se episodi simili dovessero ripetersi, avrebbe detto Maroni al Premier, si porrà un problema politico. La Russa ha poi ribadito che non c'è alcuna divisione con Maroni. Sentiamola ai nostri microfoni. Le parole non fanno velo alla comunanza di valutazione e alla comunanza di intenti, che è quella di battere la Camorra come di battere la criminalità. Ieri intanto un nuovo colpo messo a segno dalle forze dell'ordine nel Casertano, finisce infatti in manette Oreste Spagnuolo, ritenuto affiliato al clan Bidognetti del Casertano e considerato anche tra i partecipanti alla strage di Castelvolturno. E sempre ieri a Caserta viene invece organizzata la giornata della legalità. Per Radio 24 c'era Laura Viggiano. Presenza dello Stato, giustizia efficace, capacità investigativa, certezza delle pene sono solo alcune delle cose da fare su cui, secondo la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, c'è chiarezza. Insomma, la battaglia contro l'illegalità parte da Caserta per continuare con diverse tappe che vedranno unite Confindustria e i sindacati lungo tutto il sud. E la Presidente Marcegaglia dice anche che questa sarà una delle priorità per gli industriali. Ascoltiamo. Ci siamo qui a testimoniare che iniziamo proprio da un'area che ha gravi problemi, però abbiamo anche visto che c'è la volontà, ci sembra il fatto di aver visto migliaia di persone per strada, molti imprenditori qui, sta a significare che c'è un'apertura, c'è probabilmente una volontà di cambiare. Faremo tutto il possibile, questo accordo, anche questa azione comune con CGIL e CISL UIL, penso possa essere altrettanto importante. E intanto la giornata per la legalità organizzata a Caserta si tinge di nero per l'incidente che si è verificato questa mattina a Villa Literno. Nel corso di un inseguimento, una pattuglia della polizia è finita fuori strada e un poliziotto ha perso la vita, mentre un altro è gravemente ferito. Purtroppo il bilancio dell'incidente, ricordato anche nel servizio di Laura Viggiano, si è aggravato. I morti tra gli agenti di polizia sono due. Invece, secondo quelle strane coincidenze che capitano a volte e che anche noi qui all'Ottavo Giorno cerchiamo di mettere in connessione, nei giorni in cui si parla di Castelvolturno, un film di successo recentissimo, che non ha bisogno di presentazioni, sulla Camorra, a sua volta ispirato ad un libro diventato un bestseller, potrebbe arrivare addirittura all'Oscar. Lo si apprende mercoledì, ci spiega tutto Maria Luisa Pezzali. L'Italia punta su Gomorra è il film denuncia sulla Camorra firmato da Matteo Garrone, basato sull'omonimo bestseller di Roberto Saviano. La pellicola designata all'unanimità dall'ANICA per rappresentare il nostro paese nella corsa alle nomination per l'Oscar come miglior film straniero, che sarà assegnato il 22 febbraio prossimo a Los Angeles. La nostra azienda è in grado di smaltire i rifiuti che la sua fabbrica produce in un anno. 800 tonnellate. 800 tonnellate. Non è un problema. Gomorra dovrà vedersela con altri 49 film, tra i quali il 22 gennaio l'Academy sceglierà la rosa dei 5 finalisti. Boom, boom, boom, hanno fatto. In America, commenta Roberto Saviano, capiranno che raccontare non è diffamare ma resistere. Dopo il successo di Pubblico e Critica a Cannes, vincitore del premio Grand Prix, i 10 milioni di euro incassati in Italia, la distribuzione in Francia, Germania e ora Stati Uniti, sembrano davvero lontanissimi i tempi in cui si temeva che il dialetto napoletano di Gomorra avrebbe ostacolato la comprensione all'estero. Ma devi che tremare, chi sei tremare? No. Non è solo un film su una problematica locale, sottolinea soddisfatto Matteo Garrone, ma una metafora globale. Possiamo sperare nella candidatura, confessa il produttore Domenico Procacci. Fuori d'Italia il film sta veramente avendo tanti consensi. Qualche speranza, sinceramente, penso che è giusto averla. Lunedì. Si parla sempre di più anche in Italia dello scandalo del latte contaminato alla melamina, questa sostanza che credo pochissimi conoscessero fino a pochi giorni fa, una sostanza utilizzata di solito in modo corretto per realizzare contenitori di plastica, colle, resine, che invece finisce nel latte cinese e che riporta la Cina sulle prime pagine dei giornali dopo le Olimpiadi. Non si tratta naturalmente di un bel parlare, sia chiaro, viste le dimensioni poi dello scandalo. Ci sono infatti decine di migliaia di bambini intossicati che finiscono in ospedale, addirittura 4 purtroppo le vittime. La paura però si allarga oltre i confini cinesi e coinvolge anche illustri marchi del settore. E ascoltiamo dunque la cronaca di lunedì di Maria Chiara Gandis e poi il contesto italiano nel servizio di Chiara Romanello. Prima la smentita di aver diffuso in commercio latte contenente melamina. Poi la Nestlé ha ritirato da Hong Kong il latte HHT a lunga conservazione, in cui sono state trovate tracce della sostanza tossica, solitamente utilizzata nella preparazione di colle e plastica, usata questa volta da alcune società cinesi produttrici di latte per aumentarne i valori proteici. Nell'ex colonia britannica si era diffusa domenica la notizia di un primo contagio. Intanto anche il Giappone ha avviato in via preventiva il ritiro di 5 prodotti, fra cui la merendina Cream Panda, molto popolare fra i più piccoli, e Taiwan ha bloccato le importazioni. Il responsabile per la sicurezza degli alimenti a Pechino si è dimesso e anche l'Europa, che pur non corre rischi in quanto ha già sospeso dal 2002 le importazioni di latte e derivati dalla Cina, prende precauzioni. Il Consiglio dell'Unione fa sapere di voler aumentare i controlli su tutti i prodotti agroalimentari in ingresso e in Italia il sottosegretario alla salute Francesca Martini ha convocato un vertice fra governo e NAS per domattina. Scopo dell'incontro sarà quello di definire una strategia volta a evitare il rischio di introduzione nel nostro paese di prodotti pericolosi per la salute pubblica. Al setaccio container, pacchi postali, derrate di negozi e ristoranti, oltre ai distributori di prodotti di origine cinese per verificare che non abbiano importato latte o altri prodotti caseari. Importazione che nel nostro paese è già vietata per legge da diversi anni. A Milano oggi sono state sequestrate un centinaio di confezioni di latte e yogurt in due negozi, mentre a Firenze circa 6 quintali e mezzo di biscotti. E le verifiche non si fermeranno qui. Francesca Martini, sottosegretario alla Salute. Non verranno revocati, credo, fino a quando la Cina non inserirà tra quelli che sono i propri abitudini la sicurezza e i protocolli che noi attuiamo in Europa da moltissimi anni. Siamo andati nei bar della Chinatown milanese di via Paolo Sarpi a vedere qual è il clima. Almeno 15 giorni ci sono controlli qua. I cinesi o la Cina, siamo un po' nell'occhio dei cicloni, no? Io uso un par cinese, però usano solo latte Milano. Noi non utilizziamo nessun tipo di prodotto con latticini, eventualmente ce ne sono alcuni, però provengono qua dall'Europa, in Italia. Martedì. Come annunciato prima della pausa, apriamo una ricca pagina di sport e partiamo dalla Formula 1. Infatti la Federazione Internazionale martedì deve pronunciarsi sull'appello della McLaren per il risultato finale del Gran Premio del Belgio. Ricorderete sicuramente, in pista vinse Hamilton, ma il suo sorpasso su Raikkonen dopo aver tagliato una chicane era stato giudicato troppo furbo e quindi non conforme alle regole. E quindi Hamilton alla fine era stato piazzato al terzo posto, primo invece a sorpresa e forse in maniera non proprio meritatissima il ferrarista Massa. Prima del verdetto Hamilton e Massa sono divisi soltanto da un punto. Sentiamo come finisce questa storia nel servizio di Dario Ricci. Tutto come prima. La sentenza della Corte d'Appello di Parigi non cambia la classifica iridata della Formula 1. Hamilton resta in testa con 78 punti, seguito a una sola lunghezza da Felipe Massa. Ricorso inammissibile per i giudici quello della McLaren contro la penalizzazione inflitta ad Hamilton dopo l'arrivo del Gran Premio del Belgio, che aveva visto proprio la vittoria dell'inglese. Ma a quel punto i commissari di gara avevano giudicato irregolare il taglio di chicane effettuato da Lewis nel duello con Raikkonen. 25 secondi di penalità e retrocessione dal primo al terzo posto finale, con vittoria proprio per Massa. Secondo il codice internazionale, spiega la Corte, il ricorso contro il drive-thru, cioè una sanzione di questo tipo combinata sotto forma di secondi di penalizzazione, non è ammissibile. Classifica mondiale invariata, quindi, e scintille garantite domenica nel Gran Premio in notturna di Singapore. Una sentenza e un copione che sembrano scritti dalla mano di Bernie Eccleston, padrone e mago del circus dei motori. Domani la Formula 1 sarà di nuovo in pista a Singapore. La grande novità è che si corre per la prima volta in notturna, infatti il via è alle 20 locali. Così in Asia si vedranno il Gran Premio in prima serata, mentre dalle nostre parti europee, anziché farci levatacce faticosissime, potremo guardare il Gran Premio all'una del pomeriggio. Valerio Maioli è il titolare dell'azienda che ha realizzato l'impianto di illuminazione per il Gran Premio di Singapore. Lo ha intervistato Dario Ricci. Verso novembre-dicembre del 2006 mi telefonò Bernie Eccleston chiedendomi se secondo me si poteva correre di notte la Formula 1. Io rimasi un attimo perplesso e poi gli dissi: vabbè, Bernie, fammici pensare un attimo, fammici fare qualche conto. A marzo del 2007 andai a trovarlo a Londra nel suo ufficio e poi venni a Singapore, feci una verifica di quello che era la bozza del tracciato per vedere se la cosa si poteva fare. Dopodiché ho incontrato i vari funzionari governativi e abbiamo messo giù un progetto. Una bella sfida, dopo che quest'anno abbiamo visto anche l'esordio della MotoGP, no? Nelle sue gare in notturna. Non ha nulla a che fare con l'impianto di Doha, che è completamente sbagliato a mio avviso, quindi proprio ci tengo, vedrete la differenza. Insomma, quindi c'è anche un po' di polemica con le due ruote da questo punto di vista, assolutamente mai, no, non c'è polemica con le due ruote, è che io ho conosciuto l'azienda che voleva venire a Singapore a fare appunto lo stesso sistema che ha utilizzato, ma illuminare con torrifaro è quanto di più sbagliato ci possa essere. Illuminare le gare motoristiche con dei proiettori lontani dalla pista è sbagliato per un semplice principio fisico, che l'angolo del raggio riflesso è uguale all'angolo del raggio incidente, per cui se lei vuole evitare l'abbagliamento ai piloti prima e agli spettatori eccetera, lei bisogna che illumini in maniera quasi pressoché verticale, e quindi l'unico sistema è quello che abbiamo adottato noi qui a Singapore. Quanto costa un impianto del genere? Costa centinaia di milioni di euro, considerando appunto tutta la quantità di materiale. Lei pensi che ci sono 1800 proiettori da 2000 watt, ci sono più di 160 km di cavi di potenza, una cinquantina di chilometri di fibra ottica, 246 piloni d'acciaio da 12 metri. Qual è stata la reazione delle autorità di Singapore a questa idea che ha avuto Eccleston e che poi lei ha messo in pratica insieme, insomma, a tutta la sua azienda? E c'è qualche episodio particolare nei lavori che avete fatto che in qualche modo l'ha stupita, l'ha colpita? È stato un attimo difficile, le dico sinceramente. Poi dopo, a marzo, ho illuminato 64 metri, ho fatto un test e lì hanno cominciato a capire quella che era la mia filosofia. Loro hanno cominciato a seguirmi, a venirmi dietro, a credere in me, e adesso ci siamo reciprocamente innamorati. Quello che le posso dire è una luce diversa. È una luce che la gente non si aspetta, perché ho sentito delle lampade calde che si inseriscono bene in tutta la vegetazione che c'è. I tassisti, quando ogni tanto mi riconoscono, mi dicono: ma è pulito quello che lei ha fatto, it's clear, è chiaro, capito? Ed è il più bel complimento, perché si inserisce molto bene nell'architettura e nell'estetica del paesaggio. dalla Formula 1 al rugby, che mercoledì regala una grande e meritatissima soddisfazione al nostro movimento. Ci spiega tutto Giacomo Bagnasco. È il primo azzurro di sempre nella rosa più importante. Il 23 novembre a Londra si eleggerà il rugbista dell'anno, un riconoscimento a livello mondiale assegnato dall'International Rugby Board, in pratica la FIFA ovale. Una giuria di esperti ha individuato 5 uomini tra cui scegliere e accanto al neozelandese Dan Carter, allo scozzese Mike Blair, ai gallesi Shane Williams e Rian Jones c'è lui, Sergio Parisse. 25 anni, nato in Argentina da genitori italiani, il terza linea ha bruciato più di una tappa. Prima partita con la nazionale maggiore a meno di 19 anni, 54 presenze collezionate finora, i gradi di capitano raggiunti l'anno scorso. Una svolta, probabilmente anche psicologica, che lo ha portato a migliorare ancora, a disputare un sei nazioni straordinario e a giocarsi il titolo di migliore del mondo. Mercoledì. La crisi finanziaria di Wall Street e la campagna elettorale per la Casa Bianca sembrano ormai diventate una sola cosa. Più esattamente, la crisi è così ampia, così clamorosa, così colossale che ha fagocitato la sfida tra McCain e Obama, al punto che vengono modificate le strategie dei due contendenti, si mette a rischio persino la stessa campagna elettorale e gli attesissimi dibattiti in televisione. Mercoledì McCain estrae addirittura dal cilindro un coniglio, per qualcuno si tratta di una mossa disperata, per altri invece una scelta geniale per tornare a dettare i tempi della competizione. Sentiamo Sergio Nava. Campagna elettorale sospesa da oggi per John McCain, il candidato repubblicano alla Casa Bianca. Da perfetto cane sciolto ha calato l'ennesimo asso su un tavolo da gioco elettorale sempre più scosso dalla crisi economica e, senza attendere il discorso serale di George Bush, ha cancellato tutti gli impegni della campagna facendo ritorno a Washington per lavorare alla soluzione della crisi. Sempre da McCain è partita la proposta rivolta a Bush di convocare un vertice d'emergenza alla presenza dei leader del Congresso e dei due candidati presidente. La mossa ha spiazzato il campo di Obama, anche perché è stata accompagnata dalla richiesta di John McCain di rinviare il primo dibattito televisivo in programma domani nella notte italiana. Proposta rifiutata 2 ore dopo da un Barack Obama abbastanza sconcertato, anche perché era stato proprio lui a chiamare ieri per primo McCain per proporgli una dichiarazione comune sulla crisi fondata sui punti condivisi in merito al maxi piano annunciato venerdì da Bush. L'annuncio di McCain segue sondaggi per lui catastrofici. Obama, sull'onda della crisi, lo aveva staccato di ben 9 punti. La situazione descritta da Sergio Nava è molto complessa e soprattutto in continuo divenire. Nava ha citato l'incontro tra Bush, Obama e McCain per discutere della crisi finanziaria e in effetti questo incontro si svolge giovedì. Mentre ieri lo stesso McCain ha annunciato invece la ripresa di tutte le attività elettorali, quindi sospese mercoledì, prima di partire per il Mississippi, dove alla fine ha deciso di partecipare al primo dibattito presidenziale con Obama che si è svolto la notte scorsa. Ma torniamo a mercoledì, giornata davvero cruciale in questa settimana americana, perché è il momento forse culminante con l'atteso discorso alla nazione di Bush. Ecco come da New York l'ha visto Mario Platero. This is an extraordinary period for America's economy. Over the past few weeks, many Americans have felt anxiety about their finances and their future. I understand their worry and their frustration. Un discorso così drammatico dalla Casa Bianca non lo ricordava nessuno. Ieri notte George W. Bush ha parlato alla nazione di rischio panico, recessione, disoccupazione per milioni di persone se il pacchetto di aiuti da 700 miliardi di dollari non sarà approvato al più presto. Senza accordo, ha detto, molte banche falliranno, alcune nelle vostre comunità, la borsa cadrà riducendo il valore delle vostre pensioni, il valore della vostra casa precipiterà, i pignoramenti aumenteranno a dismisura, le aziende chiuderanno e milioni di americani perderanno il posto di lavoro. Un discorso così grave, preoccupato e inusuale per un governante il cui ruolo tradizionale è sempre quello di rassicurare anche nel momento di maggiore difficoltà, ed è giunto alla fine di una giornata in cui i mercati del credito sono stati paralizzati, in cui la crisi finanziaria ha pervaso direttamente la politica e le elezioni. John McCain ha annunciato di voler sospendere il dibattito di venerdì sera con Obama e la sua campagna elettorale. Obama ha respinto l'idea, ma insieme poi i candidati hanno emesso un comunicato congiunto sulla necessità di fare passi avanti per la crisi e sembra che in effetti il Congresso abbia già fatto nella notte importanti progressi verso il compromesso. La speranza ora è che per questa sera o domattina si raggiunga l'accordo. Giovedì. La CGIL insieme a CISL, UIL e UGL ha firmato l'accordo quadro con la CAI per Alitalia. Sarebbe dunque fatta per la compagnia di bandiera. Quella che avete appena riascoltato è la notizia che i sostenitori, almeno dell'accordata CAI, aspettavano da diverse settimane. Mancano pochi minuti alle 13 di giovedì e sembra davvero stringersi il cerchio verso l'accordo finale tra sindacati e imprenditori riuniti sotto la guida di Collanino per risolvere la questione Alitalia. Sentiamo allora il riepilogo della giornata di giovedì nei servizi, prima di Vincenzo Miglietta e poi di Francesca Malaguti. Prima l'annuncio, poi la smentita. Epifani non ha ancora firmato infine il via libera anche dalla CGIL. Sono da poco passate le 13 quando si chiude ufficialmente il lungo braccio di ferro che ha visto per giorni e su posizioni diverse governo, CAI e sindacati confederali. Abbiamo ottenuto le integrazioni richieste, spiega con soddisfazione Epifani. Attraverso i chiarimenti e le aggiunte che sono state portate, si consente di dare risposta ad alcune questioni che erano rimaste in sospeso. Io penso che sia molto importante il riferimento fatto all'area del precariato. Auspichiamo l'intesa anche con piloti ed assistenti di volo, commentano Bonanni, Cisla, Angeletti, Will e Polverini UGL. Soddisfatto il governo, l'accordo, dice il ministro per lo sviluppo economico Scajola, permette all'Alitalia di ottenere la proroga delle licenze da parte dell'ENAC. 12.500 gli assunti in CAI, 3.250 gli esuberi, il ministro del welfare Sacconi. Saranno protetti questi lavoratori da una robusta integrazione del reddito, ma con l'intenzione di non consumare il lungo periodo teoricamente a loro disposizione, perché ci sarà un forte impegno per il loro ricollocamento. Il commissario straordinario di Alitalia Fantozzi, infine, entro il 15 ottobre spiega, nascerà la nuova compagnia. Fino ad allora l'Alitalia continuerà a volare. Ritorna l'ottimismo, anche se manca ancora il sì di piloti e sigle autonome. Con la firma della CGIL al piano CAI, governo e commissario si sentono praticamente al traguardo. Dopo il vertice di ieri a Palazzo Chigi, il ministro Claudio Scajola già pianificava il futuro. CAI ha ripresentato l'offerta. Tutto questo mette il commissario Fantozzi nella condizione di andare questo pomeriggio all'ENAC per ottenere la proroga per le licenze di volo. E la proroga è arrivata nel pomeriggio quando il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, ha annunciato che la licenza provvisoria di 6 mesi per Alitalia resta valida. Il commissario Fantozzi ha comunicato una nuova data entro cui Alitalia deve passare a CAI. Ho ricevuto dall'ingegner Colaninno la lettera che revoca la revoca e quindi che rimette in pista l'offerta CAI, che chiede termine fino al 15 ottobre. Soddisfatto anche il ministro Sacconi, che ora si attende un buon esito per l'ultimo round con piloti e assistenti di volo. Ma anche il leader del Partito Democratico, Veltroni, rivendica qualche merito. È stato lui, sostiene, a far dialogare Colaninno ed Epifani, invitandoli a pranzo martedì scorso. Approva l'assenso finale della CGIL la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che spera che il sindacato di Epifani terrà lo stesso atteggiamento anche al tavolo della riforma contrattuale. Con la firma della CGIL all'appello mancano davvero poche sigle, si fa per dire, perché sono per esempio ancora in ballo i piloti. Per loro l'appuntamento era fissato entro le 13 di ieri. Prima però di sentire come poi è andata a finire la giornata di ieri, che poteva essere l'ultima decisiva, invece poi non è stato così, sentiamo alcune voci raccolte sempre nella giornata di giovedì da Francesca Malaguti a Fiumicino dopo la firma della CGIL. Siamo qui perché non abbiamo firmato. Mi auguro che ci sia un minimo di apertura nei confronti dei piloti, essenzialmente. Mi sembra quasi ci sia un preconcetto. Io sono la risposta che non ho privilegi, che non ho un autista. Un bel giorno mi hanno detto devi andare a Milano e sono andato a Milano. Spero si firmi, certo. Speriamo tutti che si firmi, ma qualcosa di più decente per noi. Probabilmente non conoscono la nostra realtà, i privilegi non esistono, no? Io penso che sia una campagna montata su ad arte. Venissero a fare la vita nostra e dopo ne riparliamo. Sono una mamma che lavora, c'ha 3 figli, io volo anche, quindi ho una particolare di lavoro che mi porta fuori anche 3-4 giorni, non do la buonanotte ai miei figli, non gli do il buongiorno. Questa è una particolarità e non mi sembra un privilegio. Ho idea che non ci sia una fine, qui a suon di ultimatum ci verrà un accidente a tutti quanti. E veniamo alla giornata di ieri, di venerdì, che poteva davvero essere quella conclusiva sulla trattativa di Alitalia. E invece subentrano nuovi stalli. Sentiamo allora il quadro della situazione aggiornato alle 19 di ieri, nel GR delle 19, con la voce di Vincenzo Miglietta. Trattativa decisamente complessa questa su Alitalia. L'accordo condiviso ieri da CGL, CISL, UIL e UGL è stato sottoscritto questa mattina dall'ANPAV, una delle sigle degli assistenti di volo. Resta però aperto il capitolo piloti. Questi ultimi sono da oltre 6 ore a Palazzo Chigi a colloquio con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta. È slittata invece a lunedì la possibile firma di altre 2 importanti sigle autonome relative ad assistenti di volo e personale di terra. Sentiamo allora il leader dell'SDL, Fabrizio Tomaselli. Noi stiamo cercando delle garanzie rispetto ai vari protocolli siglati che ci permettano di dire che c'è una trattativa, che c'è un contratto che in qualche modo deve essere definito e che non è tutto già definito. Ci sono dei protocolli che in qualche modo delineano gli aspetti macro. Ci sono alcune specifiche tecniche che sono già state firmate dalle altre organizzazioni sindacali e poi c'è un contratto di riferimento che è Air One. Non è possibile fare esclusivamente il merge tra i due documenti, ma bisogna rimetterci le mani. C'è ancora da lavorare, spiega dall'AVI Antonio Di Vietri, sentiamo. Diciamo che i passi avanti ci sono tutti, però ci sono ancora parecchie cosette che per ovvi motivi di discrezione non è opportuno evidenziare ora. Il capitolo partner straniero, infine, con il passare delle ore sembra avvicinarsi l'arrivo della Lufthansa. Venerdì. Ci spostiamo a Milano, dove è in corso il processo per i diritti TV Mediaset. Ieri ha preso la parola all'accusa e le cose dette chiamano in causa direttamente la politica. Sentiamo Raffaella Calandra. Il lodo Alfano è incostituzionale. Alla ripresa del processo per i diritti televisivi Mediaset, il PM milanese Fabio De Pasquale si alza dal suo scranno e punta il dito contro la norma entrata in vigore il 26 luglio, che sospende i processi per le 4 più alte cariche dello Stato. Lede il diritto di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, elenca tra l'altro il rappresentante dell'accusa nel chiedere alla Corte l'invio degli atti alla Consulta e nel frattempo la sospensione del processo per il più celebre degli imputati, Silvio Berlusconi, e non per gli altri 11. Il PM contesta il fatto che si blocchino i processi al di là della fase in cui si trovino e cita i nodi rimasti irrisolti dopo la parziale bocciatura della Corte Costituzionale nel 2004 di una legge analoga. Allora a Milano si celebrava il processo SME e il lodo si chiamava Schifani Maccanico. 4 anni dopo il lodo porta il nome Alfano. Il processo per i diritti televisivi Mediaset, ma l'imputato premier è lo stesso, Silvio Berlusconi. Come uguale è la contestazione della procura alla norma e identico il battibecco con la difesa. L'eccezione è infondata e non rilevante, replica Nicolò Ghedini, avvocato del premier, che ricorda come il capo dello Stato nel promulgare la legge abbia precisato di aver avuto come riferimento la sentenza della Consulta, che aveva dichiarato parzialmente illegittimo il lodo Schifani, ma per la procura quelle indicazioni sarebbero state disattese dal lodo Alfano. Il giorno prima, giovedì, sempre sul tema della giustizia, invece era giunto un implacabile rapporto dell'Eurispes che lancia un allarme gravissimo. Il servizio è di Maria Luisa Pezzali. In Italia si rinviano ogni giorno 7 processi penali su 10, la metà dei quali senza aver nemmeno trattato le questioni preliminari. Un rinvio che costa in media almeno 110 giorni, motivato nel 54% dei casi da ragioni banali, quali la mancata o errata citazione del test, se non la sua assenza. È l'impietosa fotografia del processo penale scattata da Eurispes e Unione delle Camere Penali. Il rapporto, 13.000 processi monitorati in 27 tribunali campione con l'impiego di 600 osservatori speciali, vuole indagare le cause di fondo dell'irragionevole durata dei processi in Italia. Il coordinatore della ricerca, Gian Domenico Cagliazza, presidente dei penalisti romani. È la macchina amministrativa che non funziona e non un preteso eccesso di garanzie che strozzerebbe il processo. Unica consolazione, si fa per dire, un'inconsueta Italia unita, senza particolari differenze fra nord e sud. La giustizia penale affonda ovunque. Dobbiamo ancora raccontarvi l'ottava notizia della settimana, che questa volta dedichiamo alla più grande cantante italiana. Mina, infatti, in questi giorni ha festeggiato un traguardo importante. Adriana Fracchia. Brava, brava! 50 anni di carriera per la super brava Tigre di Cremona. Era il 23 settembre del 1958 quando a Rivarolo del Re, in provincia di Cremona, la città dove è cresciuta, debuttava a soli 18 anni una delle più grandi cantanti del mondo, Anna Maria Mazzini, in arte Mina. Poche settimane prima si era esibita alla Bussola di Viareggio, dove il proprietario del locale, Sergio Bernardini, l'aveva fatta cantare dopo Marino Barreto. A 20 anni di distanza, il 23 settembre del 1978, proprio alla Bussola di Viareggio avrebbe dato il suo addio alle scene. Da allora ha scelto di non comparire più in pubblico, ma il suo mito è rimasto intatto. Lo straordinario eclettismo vocale di Mina e la sua capacità di essere sempre all'avanguardia e di cambiare immagine sono alcuni degli ingredienti della sua straordinaria carriera. Come per Lucio Battisti, la sua voce, le sue canzoni e il suo carisma sono riusciti a sopravvivere alla sua assenza dai palcoscenici, un'assenza interrotta soltanto da due apparizioni su internet. Nel 2009 un francobollo celebrerà il primo 33 giri di Mina, Tintarella di Luna. L'ottavo giorno si chiude qui. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, mentre vi ricordo la mail a cui potete scriverci: ottavogiorno@radio24.it. Da parte di Emiliano Enrico, l'appuntamento è alla settimana prossima alla stessa ora, sempre su Radio 24.